Ad alta voce. Anna Bonaiuto legge La Vergine nel Giardino di Antonia Bayat. Traduzione di Anna Nadotti e Giovanna Iorio Bates. Mammona. Qualche settimana dopo, quando la scuola riaprì, quando Alexander fece ritorno in macchina e si portò via i quattro quartetti, Stefani e Frederica presero un caffè al Chattery, nei grandi magazzini Wallish & Jones di Calverley. Era sabato. Frederica indossava, stravagante a quell'epoca in quel posto, pantaloni neri aderenti e un maglione con le maniche a pipistrello, con una sciarpetta intorno al collo. Era molto truccata, palpebre verde erba, ciglia nere, labbra color prugna. Stefani era in disordine, accaldata, in gonna e cappotto. Frederica beveva caffè freddo deluxe con due palline di gelato, un lungo cucchiaio e cannucce. Stefani un caffè con un brico di panna. Disse a Frederica: «Devo dirti una cosa». «Dimmi». «Dunque, non era facile». Frederica sollevò lo sguardo dalle cannucce. Stefani era rosso, raggiungeva perfino la punta delle orecchie e la radice dei capelli. «Sputa il rospo! Io sto per... cioè... mi sposo». «Ti sposi?» «Sposerò Daniel Orton, tra non molto». Per un terribile istante, Frederica la fissò con sdegno. Pronunciò le prime parole che le vennero in mente. «Non lo sapevo!» «Non l'abbiamo ancora detto a nessuno». «Non lo sapevo!» ripeté Frederica con tono offeso. «Sento che ci saranno delle difficoltà». «Immagino di sì», confermò Frederica, brusca. «Bisogna che lo dica a papà. Non ne sarà entusiasta, questo è sicuro». Frederica sbirciò sua sorella, ora di tenue carminio, un colore assurdo sotto quei capelli chiari. Una grossa lacrima indugiava all'angolo di un occhio. Frederica lo trovò ripugnante. «Fare la moglie di un vicario è un lavoro a tempo pieno. Feste di beneficenza, comitati di mamme, spalla su cui piangere, eccetera, eccetera. Ti occuperai di tutte queste cose?» «Beh, di una parte, immagino. Non mi dispiace». «Ora capisco cosa intendi per difficoltà. Santo cielo!» Stefani sbottò. «Mi piacerebbe che dicessi qualcos'altro. Sono molto felice per essere meglio». Allontanò con un ampio movimento del braccio porcellana bianca, forchettine argentate, tovaglioli di carta, affondò il viso tra le braccia e si abbandonò ai singhiozzi. Frederica inorridì. Chiamò una cameriera, diede un colpetto sulla spalla di Stefani e disse: «Certo che sono contenta. Altri due caffè, per favore, con la panna e subito». «Scusami, Stefani, è uno shock. Non me l'aspettavo assolutamente. Sei innamorata di Daniel Orton?» «Sì, questo è sicuro». «Come fai a esserne sicura?» La domanda suonò inquisitoria, anche se Frederica intendeva incoraggiare le confidenze. Daniel Orton era grasso e religioso. Frederica desiderava, e insieme non desiderava, immaginare che effetto facesse essere innamorata di Daniel Orton. «Come si fa di solito, no?» Risollevò il viso rosso e lucido e si guardò intorno distrattamente. «Sono andata a letto con lui». «Ed è stato eccitante?» indagò Frederica, con una voce in cui stranamente si mescolavano lubrica curiosità e asprezza. «È stata una rivelazione», disse Stefani con dignità. Udì l'accento di Cambridge della sua voce abbattersi sul silenzio felpato dei pettegolezzi di Calverley, alzò gli occhi e incontrò non l'amichevole, curioso cenno di assenso di una amica dell'università, bensì il viso volpino di Frederica, teso, avido e troppo truccato, con un'espressione che era un misto di gioia, disgusto e collera irrefrenabile. «E intendi portare velo e fiori d'arancio?» disse con voce stridula. «E fare di me una damigella con delizioso copricapo, che al tuo passaggio sparge petali di rosa da un grazioso cestino? E prometterai di obbedire? O quello che stai per sposare è un uomo di chiesa moderno?» «Non capisco perché reagisci così». Non lo capiva neanche Frederica. Era sopraffatta da una perfidia irragionevole, incontrollabile. «Avrei fatto meglio a non dirtelo». «Sono felice per te, credimi. Lo sono davvero». «Bene», disse Stefani. Si alzò e posò due mezze corone sul tavolo. Prima che Frederica avesse il tempo di formare la frase successiva, se n'era già andata. Frederica restò a giocherellare con le monete. Si era comportata in modo orrendo. e si sentiva orrenda. Pensò ad Alexander. Il fatto che Stephanie avesse apparentemente rinunciato ad amare Alexander lo faceva sembrare più immateriale e più lontano. Come sarebbe stata la sua vita d'ora in poi? Una volta diventato ricco e famoso, e lo sarebbe diventato certamente, l'arte, come già era. L'immaginazione di Frederica ammutoliva sconfitta. Avrebbe ascoltato i quattro quartetti e avrebbe seguito i nuovi allestimenti delle sue opere, che lei riusciva a immaginare, e partecipato a cocktail letterari che invece non riusciva a immaginare. L'essenziale era la conversazione, non le teiere, e lei non riusciva a immaginare la conversazione. Non somigliava alle conversazioni dei Potter, faceva pensare alla scrittura, non a tediosi discorsi sulla scrittura. Ci sarebbe stato anche il sesso. Stephanie aveva fatto le proprie scoperte in quel campo. Non avevano mai discusso della vita sessuale di Stephanie e neppure dell'eventualità che ne avesse una, e Frederica adesso era turbata all'idea che fosse, e fosse stata, troppo prosaica. Il che la rendeva furiosa, almeno quanto l'arrendersi di Stephanie alle sicurezze borghesi. Incerta fra due estremi, lo stile e il fatto, Frederica vagava in una immaginaria anticamera. Che Stephanie avesse abbandonato la casta e chimerica attesa di Alexander per carne solida rendeva quel sogno impossibile o più concreto. Sono andata a letto con lui. È stata una rivelazione. Qualcuno da qualche parte sarebbe probabilmente andato a letto con Alexander, o forse già ci andava. Perciò era logico desiderare farlo, oppure considerarlo un sogno a occhi aperti. Frederica decise che il suo odioso comportamento con Stephanie esigeva espiazione. Avrebbe speso parte dei risparmi destinati a Elliot per un mestolo di legno o un mattarello, intascò il resto delle monete di Stephanie per il caffè e si diresse al reparto casalinghi nel seminterrato. Il grande magazzino Wallish & Jones faceva parte del suo modo di vivere da moltissimo tempo. Quando era piccolina, la portavano lì ogni anno a Natale, a vedere Babbo Natale nel Palazzo delle Fate o, in alternativa, Babbo Natale nella grotta sotterranea. La guerra aveva nuociuto alla verosimiglianza e al fascino tanto del palazzo quanto della grotta, l'uno abitato da stuoli di fate sfavillanti di stelle, l'altro di gnomi tempestati di gemme che spalavano e spingevano carriole. Lo splendore autentico del regno delle fate era stato sostituito dall'incanto artificioso dell'illusione teatrale manifesta, l'interno della grotta rivelato come qualcosa di simile ai fondali dietro cui si cammina su un palcoscenico. All'epoca, un qualche genio della meccanica aveva reso possibile la discesa nella grotta a bordo di traballanti carretti condotti da gnomi e fate, carretti a forma di cigno o di drago. Frederica li aveva adorati, come ora adorava i treni fantasma e le montagne russe, il precipitare nell'artificioso luccichio di un altro mondo attraverso un passaggio misterioso. In quel momento stava dritta e arcigna sulla scala mobile principale, i cui gradini argentati scivolavano, rotolavano, e lei veniva lentamente inghiottita nell'abisso. Il reparto merceria era sempre stato una meta prediletta. A quell'epoca lei e Stephanie venivano a comprare colletti di pizzo per vestiti buoni, nastri per capelli, fettuccia, elastico, bottoni e automatici. Nel 1953 Frederica considerava quelle visite un tedioso rituale, anche se intuiva la possibilità di un giudizio diverso, cui infatti sarebbe giunta 20 anni dopo, ispirato a una sorta di dickensiana nostalgia per i dettagli di una vita svanita. Ma quel giorno perfino le cartine di spille e le bustine di aghi la deprimevano. Andò a gironzolare nell'area esplicitamente frivola del reparto, dove su busti neri, lisci e vellutati, privi di testa, erano drappeggiate collane d'oro e di vetro, dove orecchini a cerchio pendevano da spoglie alberi d'ebano, dove orribili coppe da champagne straripavano di bollicine di plastica, color vino, oro, argento, perla. Al centro c'era un chiosco circolare, all'interno del quale una ragazza paffuta si dava un gran da fare. Fiori d'arancio di cera, foglie di alloro di lamina d'argento, fiocchi di velluto, diademi costellati di strass e piccole pere di cera raccolte in minuscoli grappoli su piccioli metallici, tutti con relativo drappeggio di tulle. Alcuni erano decisamente polverosi, altri freschi e candidi come neve. In una sorta di zuffa da rugby, le future spose si tuffavano e si spingevano a colpi d'anca. Fuori era freddo e umido, dentro faceva caldissimo. Dal tweed, dal gabardin e dagli stivaletti bordati di pelliccia si levavano sbuffi di vapore. Un cerchio più largo di accompagnatrici, madri, nonne, zie e sorelle restavano di riserva intorno alla ressa operosa, tenendo stretti ombrelli, cappelli e pacchi umidi. Era quasi impossibile aprirsi un passaggio, anche per il corpo. Piegavano il busto in avanti ad angolo acuto, i posteriori compressi che lo sgamavano a piedi in modo innaturale e raggiungevano, ghermivano, scuotevano le corone e il velo. Dopo averle afferrate e sistemate su capelli umidi, erano costrette a un esercizio di contrappeso con la parte inferiore del corpo per non perdere l'equilibrio. Alcune, dopo essersi sbirciate allo specchio, torcevano il busto per mostrare il viso incorniciato alle loro accompagnatrici, inclinandosi, reggendosi nervosamente, a volte come in una bufera di vento. Frederica osservava affascinata. Pensò che era toccante e assurdo, e osservò le loro gambe che saltellavano, pestavano, premevano il pavimento infangato. Dopo un istante, rise forte e ripartì in cerca di un regalo stupido per Stefani. Alla fine comprò due sciocchezze, un paio di pantofole di capretto bianco e piumino di cigno dentro una specie di cofanetto trasparente con sopra un nastro rosa e una cintura di quelle ad anelli, via di mezzo tra il guinzaglio e la corazza, allora tanto di moda. Queste due cose le costarono tutti i risparmi accantonati per i quattro quartetti, ma ne fu soddisfatta. Stefani poteva conservare le pantofole per la luna di miele, una prova della simpatia di Frederica per l'intera faccenda, una rivelazione. Quanto alla cintura, l'aveva scelta rispettando l'ottimo principio che anche a lei sarebbe piaciuto riceverla, un regalo inatteso. Dopodiché si infilò nella porta a vetri girevole, percorse un semicerchio esatto, respirò una profonda boccata d'aria fresca che le diede le vertigini e si incamminò a grandi passi nella strada grigia e piovosa. Pater Familias. Era una regola di Alexander quella di non entrare nelle case o focolari delle donne sposate di cui era innamorato. Riteneva che fosse inopportuno per loro e per lui. O esse non amavano le proprie case o focolari e perciò erano irritabili e distratte, o segretamente le amavano e invitandolo a entrarci volevano consacrare casa o amante. C'era una terza possibilità nella quale non si era mai imbattuto. Temeva che un giorno una donna gli chiedesse di partecipare alla distruzione rituale della casa, o focolare, di armarsi di scure e trapano e fare l'amore tra le tende a brandelli del salotto. Una o due volte c'era andato pericolosamente vicino. Aveva trascorso una buona Pasqua. Aveva scritto a Jennifer quanto sentiva la sua mancanza, dovunque si trovasse. Quando si aggirava nell'albergo dei genitori, sbirciando attraverso le porte numerate un letto anonimo dopo l'altro, quando passeggiava, ahimè, da solo, sulle dune argillose, quando vagava sulla riva sabbiosa del mare di Weymouth. Nel seminterrato i suoi genitori avevano una sfilza di cucine edoardiane con retrocucina, tinteggiate di marrone, scarsamente arredate, con porte smaltate sbilenche e stuoie di cocco ondeggianti. Se ne stavano là, seduti tra enormi lattine di zuppa di pomodoro e scatole di cipolle disidratate, sfogliando il Daily Telegraph e ascoltando la radio. Il capitano e la signora Wedderburn erano sia proprietari sia manodopera. Programmavano arrivi, partenze e acquisti, sostituivano lenzuola sporche e stoviglie sbrecciate. Alexander non scrisse a Jennifer di tutto questo. «I miei genitori stanno bene e sono felici e contenti di vedermi», scrisse, sebbene avessero a stento trovato il tempo di rivolgergli la parola. Scrisse eleganti lettere anche a Crow sul piacere intenso delle passeggiate solitarie, senza studenti. portava sempre con sé le risposte di Crow, piene di entusiasmo per l'estate imminente, e quelle di Jennifer. Al suo ritorno trovò lei depressa e i suoi modi quasi irritabili. Non capiva se fosse angosciata perché lui era stato via o arrabbiata perché non poteva allontanarsi da lì. Si videro una volta sola sulla collina di Castle Mound e si accorsero di essere spiati dal viso maligno, apparentemente disincarnato, della ragazzina con i capelli raccolti nella retina scarlatta, materializzatasi in un cespuglio spinoso. «Come il gatto del Cheshire», disse Alexander, ma Jennifer replicò bruscamente che non era il caso di scherzare. Era ormai diventata una perpetua alice che spia giardini inaccessibili dal buco della serratura e desiderava un po' di terrena realtà, grazie tante. E così Alexander si ritrovò invitato all'ora del tè, non prima di aver organizzato per precauzione una visita ai Potter in serata. Il Potter non parlava con Geoffrey Perry, il marito di Jennifer, da quando avevano litigato su Thomas Mann, che secondo Bill era un ozioso ciarlatano. Perry aveva detto che si potevano avere opinioni diverse. Bill aveva detto che un essere pensante e rispettoso di sé non poteva comportarsi così. Perry aveva detto che Bill non leggeva il tedesco. Bill aveva detto che in quel caso non aveva nessuna importanza. Perry aveva detto che Bill era limitato e Bill aveva detto che quell'insulto dimostrava la sua ignoranza. Perry spiegò a Jennifer, che non ascoltava, che irascibilità e smodatezza non sono necessariamente contagiosi. Da allora non aveva più rivolto la parola a Bill. Jennifer aveva preparato per Alexander una torta speciale e un tè speciale. Quando varcò la soglia, strofinò estaticamente il viso contro quello di lui, mentre il piccolo Thomas, che teneva in braccio, le pizzicava una guancia con gesto possessivo. Condusse quindi Alexander in una visita guidata non richiesta. Lui si infastidì nel constatare che Jennifer gli attribuiva il morboso interesse dell'amante per ogni dettaglio della vita privata dell'amata. Il bagno con piastrelle a fiori rosa, la camera del bambino con un allegro mobile ispirato a Miro, la stanza da letto con mobili svedesi e tende di tweed. In quest'ultima stanza Alexander si sentì un voyeur, uno sporco intruso. Jennifer gemette dolcemente e gli prese la mano. Il piccolo Thomas, a cavalcioni sull'anca della madre, gemette anche lui. Lei lo mise a sedere sul letto e sedette sul bordo. Alexander restava in piedi. Thomas fece un risolino tirandole i vestiti. Jennifer gli diede una spintarella e il bambino scoppiò a piangere. Lo tirò su, rigirandolo con fare esperto e non privo di dolcezza, se lo mise sulla spalla a testa in giù e scese precipitosamente al piano di sotto. Presero il tè, entrambi agitati, entrambi soffrendo per qualcosa che non era né desiderio né il contrario. Dal seggiolone Thomas fissava Alexander con occhi di un azzurro cristallino. Alexander sorseggiava tè dalla tazza di porcellana rosata e intanto pensava: ci sarebbe stata con il bambino a sbirciare dall'altra parte del letto. Jennifer tagliò delle fettine di pane e le spalmò di pasta di cetriolo. Thomas le gettò per terra. Lei girò il seggiolone verso la finestra. «Guarda, Thomas, guarda gli alberi, il cielo azzurro e il sole!» Thomas inghiottì e quasi soffocò, contorcendosi per continuare a fissare Alexander. Alexander sentì che doveva rivolgergli un po' d'attenzione e gli porse un dito impacciato che fu stretto in una morsa diffidente e burrosa. «A quanto pare gli piaci», disse Jennifer. Si asciugò qualche lacrima, sollevò Thomas e lo mise a sedere sulle ginocchia di Alexander, indugiando con mano elettrizzata sulla patta dei pantaloni. Tirò su col naso e indietreggiò per contemplarli. «Sono sicura che ti vorrebbe bene. Devo andare dai Potter». Si alzò e si scrollò i vestiti. «Ti amo». «Anch'io ti amo. Non sopporto di stare così in questa casa. Non funziona. Devi liberarti per una giornata intera e uscire. Ho la macchina adesso». «Non posso». «Devi. Trova uno stratagemma». Alexander uscì e andò dai Potter. Fu Frederica a farlo entrare. Nell'aprire la porta lo mise in guardia con un sussurro da suggeritore teatrale. «In questa casa si sta preparando un mostruoso litigio. Credo sia imminente. Sono tutti strani da giorni». «Forse è meglio che me ne vada». «Oh no!» disse Frederica e richiuse la porta dietro di lui. C'erano tutti. Bill gli offrì uno sherry. Ne versò un po' per loro due e poi, come ripensandoci, ne versò un goccio a Winifred. Sembrava propenso alla conversazione. Frederica subissò Alexander di considerazioni su Jennifer Perry e la sua interpretazione della signora non è da bruciare, da cui passò facilmente al suo proposito di intraprendere la carriera di attrice e di non restarsene con le mani in mano, lasciando ammuffire il suo talento, quale che fosse, santi Dio. Da quando aveva ricevuto la lettera di Benjamin Lodge, in cui le veniva offerta la parte della giovane Elisabetta prima dell'incoronazione, aveva vissuto in uno stato di esaltazione e aveva preso a infarcire la conversazione di imprecazioni ed epiteti non proprio arcaici, ma ovviamente versioni moderne di quelle di Elisabetta. Difficile sopportarla. Alexander cercò di smorzarne l'entusiasmo con alcuni dati sulla disoccupazione tra le attrici aderenti al sindacato. Bill disse che Frederica sarebbe andata all'università e avrebbe preso una buona laurea, come Stephanie, dopodiché avrebbe avuto i titoli per scegliersi una professione. «Come Stephanie», disse Frederica con scherno. «Come Stephanie», disse Bill, «anche se hai ben poco dell'autodisciplina di Stephanie o del suo rispetto per la verità. Immagino che Stephanie abbia fatto quello che volevi tu, perciò la sua carriera ti va bene, o no? Può fare di meglio, farà di meglio». Questo posto è solo una fase di passaggio. Tu non sai niente di Stephanie e di quello che ha intenzione di fare. Non sai cosa vuole, né lei né nessuno di noi. Non ti rendi conto di quello che ci hai fatto. Oh, Frederica, intervenne Stephanie arrossendo. Alexander la guardava con interesse. Pensò che Frederica gli avesse predetto quel litigio con tanta sicurezza perché intendeva provocarlo. So che Stephanie si accontenta di poco. Le dico spesso che spreca se stessa in questo posto. Immagino che sia d'accordo, Alexander. Alexander fu salvato da Winifred, la quale si intromise, senza immaginare le conseguenze delle sue parole, innervosita da quanto aveva detto Frederica. Non è questo il punto. Qualcosa non va, Stephanie? Non c'è niente che non va. Niente. La verità è che mi sono fidanzata e intendo sposarmi. Avrei preferito aspettare a parlarvene. Per qualche strano motivo si rivolgeva ad Alexander. Aveva un'aria infelice. Bill disse: «E con chi ti sei fidanzata e intendi sposarti, se non sono indiscreto, dal momento che non ne ho la minima idea?» Sempre rivolta ad Alexander, Stephanie disse: «Con Daniel Orton». «E chi sarebbe Daniel Orton?» «Era impossibile stabilire», decise Alexander, «se quella domanda fosse frutto di sincera ignoranza o grande ironia». Fu Frederica a rispondere. «È il vicario, quello che viene, cioè, è venuto per i gattini». «No», disse Bill. «Le mie felicitazioni», mormorò Alexander. «Devi essere impazzita». «Voglio sposarlo, ci ho riflettuto, e anche lui. Sono cose che si devono decidere da soli. Stupidaggini!» «Papà, per favore, non cominciare». «Per favore, dico sul serio, è la mia vita. Per favore, non cominciare». «La tua vita? E cosa diavolo pensi che sarà la tua vita sposata a un vicario? Pettegolezzi e cuscini da inginocchiatoio, scout, associazioni di madri e vendite di beneficenza. Non sei adatta a quel tipo di non vita. Come un cavallo da corsa attaccato al carretto del latte. Impazzirai dopo una settimana se non lo sei già. E lui deve essere matto. O del tutto privo di immaginazione se si aspetta questo da te. Non che l'immaginazione sembri il suo forte, papà. E poi c'è la sua fede, per quel che significa oggigiorno. Suppongo che tu non la condivida. O sei arrivata a tanto? No, ma... No, ma... Il suo lavoro è giusto. Io rispetto il suo lavoro. Non è il tuo lavoro, sciocca. Non richiede le tue qualità. E richiede qualità che tu non possiedi. Quell'uomo non deve averci pensato affatto. Il pastore non glielo permetterà mai. Santo cielo, Stephanie, non venirmi a dire che intendi far parte di un'istituzione che osserva le idee di San Paolo sulle donne e, non c'è dubbio, sulla riproduzione e la santità di un parto dopo l'altro. Diventerai una vacca. Una vacca e una schiava e verserai te vestita di tweed. Non puoi farlo. Vorrei che la smettessi. Sei ingiusto con Daniel e non ne hai il diritto. Bill si rivolse platealmente ad Alexander. Evidentemente ho commesso degli errori, molti errori. Eh sì, deve essere così. Ho fallito da qualche parte. I miei figli non hanno fegato, non hanno fegato né fermezza. Procedono senza avere il coraggio di affrontare una vera sfida. Mio figlio è un lunatico e mia figlia vuole sposare una menzogna, un totem e seppellire il proprio talento. Hai sbagliato, disse Frederica. Hai sbagliato comportandoti come stai facendo ora. Sei tu che ci rendi impossibile fare ciò che ci chiedi, perché lo fai sembrare ripugnante con le tue stesse scenate. Mi viene il dubbio che Stefani sposi il vicario solo per farti un dispetto, per mettere a tacere la tua voce stridula che ci spiega incessantemente cosa è giusto e che cosa è sbagliato. Calmati, Frederica, disse Winifred, e anche tu, Bill. Evita di fare danni irreparabili. Io sto cercando di evitare un danno irreparabile, non capisci? Vuoi che nostra figlia sposi un vicario obeso? No, non è questo che voglio, ma quello che vogliamo noi è secondario. La decisione spetta a lei e io sarò al suo fianco. Non te ne sarà grata. Vuole metterci alla prova. No, disse Stefani con freddezza. Qualunque cosa voi o Frederica pensiate, questo non ha niente a che fare con voi. Amo Daniel. Non è stato facile. E così facendo rendete tutto più difficile. Ma non otterrete niente di diverso. Dunque, per favore, smettetela. Bill afferrò una pila di libri con sopra un posacenere e glieli lanciò contro. Stefani si piegò di lato. I libri atterrarono, sparpagliandosi con tonfi sordi intorno a lei. Il posacenere colpì una piccola lampada che esplose, spargendo vetro e odore di bruciato. Stefani raccolse due libri. Le tremavano le mani. Alexander vide una crosticina di schiuma agli angoli della bocca di Bill. Distolse gli occhi e disse: «Credo che non dovrebbe insistere e credo che la mia presenza sia inopportuna». Stefani è sconvolta. «Sconvolta», ripeté Bill. «Sconvolta! È giusto che lo sia. E lo sono anch'io, sconvolto. Comunque non dirò altro. Non toccherò più l'argomento». Tu puoi fare ciò che vuoi, naturalmente, ma qualunque cosa sia, non voglio saperne niente. Dunque, sarai così gentile da non disturbarmi mai più. Si guardò intorno con occhiate fulminanti, fece un cenno cortese del capo ad Alexander e uscì dalla stanza sbattendo la porta. Winifred, il volto privo di espressione, lo seguì. Anna Bonaiuto ha letto La Vergine nel Giardino di Antonia Bayat, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Chiara Valerio e Lorenzo Pavolini, ad alta voce @rai.it.